Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Mattino. Ho una frase che da ieri ronza nella testa ma era indefinita. Stamattina ha preso forma ed è: mo ci ripigliamo tutto quello che è nuosto. Pagando chiaramente. I 5 Stelle si è visto qua quanto sono attaccati alla poltrona, in quanto al contrario di quanto hanno detto. Dicevano no, giustizia, giustizia. Ecco. In questi frangenti si sono dimostrati molto attaccati alla poltrona. Ma se lo Stato ne esce male, ma in questo momento chi è che rappresenta lo Stato? Ma lo Stato siamo noi, ennesimi soldi pubblici dati a questi Benetton, e qui c'è gente che usa dei toni trionfalistici. Guardi, inizio rispondendo all'ultimo ascoltatore, non so sinceramente come andrà a finire la partita dal punto di vista appunto della vendita di autostrade, del passaggio di mano di autostrade che avverrà tramite un aumento di capitale. Tra l'altro un ascoltatore ci diceva: ma se avviene con un aumento di capitale poi non c'è passaggio di denaro? Sì, il passaggio di denaro c'è, perché il socio è un po' complicata, però la butto semplice: il socio che si diluisce, in questo caso Atlantia, che è la società controllante, ha dei diritti, delle opzioni che può rivendere, che sono poi la differenza tra il valore iniziale dell'azione e il valore post aumento di capitale. E quindi sì, teoricamente l'incasso ci sarà, vedremo di che dimensioni sarà. Naturalmente non è male la battuta, quella citazione di Gomorra, perché qua oggi anche sui giornali c'è qualche elemento che ci parla di questo statalismo di ritorno, di questo Stato che rientra nell'economia pesantemente, in questo caso con autostrade, poi c'è Alitalia naturalmente. E sul fatto, l'ascoltatore parlava dell'attaccamento alla poltrona, penso che si riferisse alla questione della revoca, perché il Movimento 5 Stelle aveva detto bisogna procedere con la revoca, fin dall'inizio lo ha detto, e poi ha dovuto, per così dire, cedere a questa diversa opzione raggiunta con un accordo nella notte tra, in particolare tra il ministro Gualtieri, il presidente del Consiglio Conte e la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Non so se intendesse questo, immagino di sì. E però i 5 Stelle, come vedremo tra un attimo, cantano vittoria per quello che è successo ieri, perché l'obiettivo, che ha chiarito anche abbastanza, in maniera abbastanza energica, Danilo Toninelli, l'ex ministro delle Infrastrutture e Trasporti, era esattamente l'estromissione dei Benetton. E ci arriveremo appunto con la nostra rassegna stampa, la seconda parte di 24 Mattino, questa, quella appunto dedicata alla rassegna stampa. Sono le 7:23 minuti e 40 secondi di giovedì 16 luglio. Iniziamo dalle prime pagine dei quotidiani, dalle aperture dei quotidiani che sono dedicate esattamente a questo. Autostrade, la svolta ai dubbi, è il titolo del Corriere della Sera, che intervista anche Luigi Di Maio, il quale dice basta grida, serve serietà, e definisce il risultato raggiunto ieri. Tra l'altro vi segnalo questa intervista perché è la prima intervista un po' più politica che rilascia Luigi Di Maio da qualche tempo, che da qualche tempo invece sta parlando solo di esteri, solo del suo ruolo di ministro degli esteri. Appunto parla di risultato molto positivo ed esclude che il governo possa cadere. E ora, abbassare i pedaggi. La Repubblica, autostrade, controllo a CDP, i Benetton che parlano di un esproprio, con un pezzo di Giampaolo Visetti che racconta quella che definisce l'amarezza della famiglia: fin dal primo istante volevano l'esproprio. Autostrade, Conte piega il Movimento 5 Stelle, il titolo del Messaggero, che ne dà dunque la lettura politica della vicenda. Il Manifesto, come sempre la scelta è con un gioco di parole, strada statale. Lo scontro su autostrada è finalmente una soluzione. L'accordo notturno nella maggioranza prevede l'uscita di scena dei Benetton. La Stampa intervista la ministra Paola De Micheli, quasi in risposta a quello che abbiamo visto su Repubblica. Nessun esproprio ai Benetton, è il titolo. E qua entriamo nelle interpretazioni diverse se questo accordo sia stato in realtà un regalo oppure no. Quindi il tema del prezzo, se volete. Autostrade libere, i Benetton in fuga, è il titolo del Fatto Quotidiano che celebra l'accordo. Conte fa un regalo ai Benetton, è il titolo della Verità, che vede Libero sulla stessa linea, autogol di Conte, autostrade fa il danno, gli italiani pagano, e il titolo dell'editoriale di Vittorio Feltri è regalo all'azienda di Treviso, beati lor signori. Il Giornale, nessuna revoca, bugie su autostrade. Il Quotidiano Nazionale invece la vede da tutt'altro aspetto. Benetton, vincono i 5 Stelle. Come vedete, non ci sono letture simili sui giornali. Freddo su questo il Sole 24 Ore, che dedica due pagine molto precise anche su quelli che sono i temi sul piatto, a partire dal prezzo. Ad Aspi 4 miliardi, il controllo passa a cassa e fondi, ma l'apertura sull'ingorgo fiscale, in 15 giorni 246 scadenze. Avvenire invece apre su un'intervista con il presidente della CEI, il cardinale Gualtiero Bassetti. È crisi di civiltà, e dice, la vera emergenza è il calo delle nascite. Iniziamo come sempre da qualcosa di laterale, poi torneremo alla vicenda di autostrade. Laterale nemmeno tanto, amici miei, perché i racconti che troviamo ci si dedicano soprattutto la Stampa e il Quotidiano Nazionale, ed è dal Quotidiano Nazionale che iniziamo a pagina 19. I racconti sono terrificanti. È un nuovo filone d'inchiesta a Siena su dei ragazzini di 17 anni che diffondevano e vendevano pedopornografia sul web. E il titolo già del pezzo di Laura Valdesi da Siena, pagina 19, racconta già il livello di orrore che si è raggiunto. Bimbi torturati a morte in diretta. Questo è il racconto. Abbiamo sollevato il coperchio su un calderone dove c'è un orrore mai immaginato. Con mio marito pensiamo che questa vicenda è più grande di noi. Tuttavia nessun pentimento, anche alla luce degli sviluppi di ieri, per aver denunciato ai carabinieri video raccapriccianti trovati nel cellulare di mio figlio di 13 anni. Parole della madre Coraggio di Siena, che ha dato il via all'inchiesta sulla chat The Shoah Party, ve la ricorderete, se n'era già parlato, quella con denunce e perquisizioni di minorenni in tutta Italia nell'ottobre scorso. Raccontava violenze sessuali di gruppo, bambine costrette a fare sesso con adulti, foto apologetiche del nazifascismo, immagini oscene che riguardavano Gesù ed esaltavano il razzismo. Ma appunto c'era molto di più. Dalla chat degli orrori, le indagini dei carabinieri del nucleo investigativo di Siena, guidato dal colonnello Michele Tamponi, grazie anche all'esito positivo degli interrogatori, hanno svelato l'orrore. Nel deep web si mostrano omicidi, si assiste a estrapolazione di organi, un contesto terrificante dove si tuffava, sembra già da qualche anno, grazie alle competenze informatiche, un 17enne del Torinese, che poi raccontava in chat ad un coetaneo, una coetanea ex compagna di scuola che vive in Piemonte, cosa c'era nelle red room, appunto stanze nascoste nelle quali avveniva anche questo. Nel sud-est asiatico, pagando in criptovalute, si poteva assistere a violenze sessuali e torture praticate sui minori. E visto che parliamo di soggetti deboli, perché così spesso vengono qualificati dal punto di vista del tribunale, il Messaggero in cronaca di Roma ci porta su una questione della quale nel periodo del lockdown abbiamo parlato in più di un'occasione, però poi è finito sotto traccia. È il tema della violenza sulle donne. Donne aggredite in casa, due violenze al giorno, c'è l'effetto quarantena, e questi sono i numeri che arrivano solamente dalla capitale. Tra loro, racconta Adelaide Pierucci nel pezzo, appunto a pagina 34, c'è chi ha vissuto per anni in una gabbia di terrore, costretta al silenzio, non uscire di casa, di indossare determinati vestiti al posto di altri, c'è chi ogni sera di fronte allo specchio del bagno, con il volto macchiato dal sangue e dalle lacrime, prova a tamponare l'ultima ferita causata da un pugno, un calcio e uno schiaffo. E questi sono i dati. Tra febbraio e marzo scorso le donne assistite dai centri antiviolenza sono passate da 539 a 556, e benché da marzo ad aprile si sia arrivati a 560 casi, non sono mancate le richieste di aiuto in piena emergenza sanitaria. Soltanto telefono rosa è stato subissato di chiamate, messaggi e richieste di supporto, principalmente psicologico, un aumento continuo e costante, spiega Gabriella Carnieri, presidente di Telefono Rosa. A marzo una leggera flessione per la difficoltà di non avere i centri antiviolenza aperti, ma le donne hanno chiamato lo stesso per chiedere supporto e sostegno psicologico. E questa è la storia che ci racconta il Messaggero. Io resterei sul Messaggero, perché visto che parliamo di regole Covid, c'è tutto questo tema delle fughe in avanti delle regioni e delle regole che di nuovo iniziano ad essere diverse e iniziano a preoccupare un po' dalle parti del comitato tecnico scientifico, qua senza iniziare con la solita storia del fate terrorismo sanitario. E però la misura di quello che sta succedendo ce lo racconta Francesco Malfetano a pagina 7. Prudenti o avventati? Ligi al richiamo del Comitato Tecnico Scientifico o libertini in terra d'autonomia e normalità? Oggi l'Italia appare spaccata sulle misure anti-Covid-19 volute da Palazzo Chigi. A dividerla sono appunto le regioni. In Veneto, Emilia Romagna e Liguria i governatori si sono mostrati più avvezzi alla riapertura di locali da ballo e fiere, nonostante la proroga del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che prevedeva lo slittamento del gran ritorno al 31 luglio sia all'aperto che al chiuso. Per esempio, i locali delle Riviere sono già ripartiti dal 19 giugno scorso e non c'è alcuna intenzione di fermarli, anche se restano vietati i balli di coppia tra persone non conviventi, quindi addio liscio. Come questo possa essere verificato in una discoteca non è in realtà del tutto chiaro. Sorte simile per Veneto e Liguria, che però sono rimaste più prudenti. I locali sono aperti, ma gli è concessa solo la somministrazione di alcolici. Non si può ballare, una formula che dall'entrata in vigore di alcune settimane fa ha già sollevato molte polemiche, con assembramenti e serate danzanti incontrollate, segnalate ovunque. Questo il quadro dall'Italia e dalle differenze regionali. Una pausa e poi... Ah, mi spiace, sono dolori perché parliamo di tasse. Mattino. Cosa doveva fare lo Stato? Secondo me questa è la cosa migliore che si poteva fare, il male minore. E quale altra alternativa c'era? Sembra che adesso lo Stato entri, faccia la panacea. Ricordiamo che l'autostrada del Brennero è pubblica, nel senso che appartiene in larga parte alla provincia autonoma di Trento. Beh, è l'autostrada più costosa d'Italia, penso, ed è un'autostrada dove ci sono sempre cantieri, sempre. Ok, non intervengo perché vi siete risposti da soli, vi siete detti le vostre posizioni da soli. Lo Stato e le tasse. C'è un tema che abbiamo sollevato ieri e che torniamo a sollevare, del quale tra l'altro torneremo a parlare domani mattina alle 6:45, ed è il tema del rinvio delle scadenze fiscali, perché occhio che sono tante, eh? Il Sole 24 Ore oggi ci dedica l'apertura: ingorgo fiscale in 15 giorni, 246 scadenze, un maxi lavoro per le istanze di bonus. E siamo a pagina 27, norme tributi. E il pezzo lo firmano Marco Mobili e Giovanni Parente, questo per darvi la misura della complicazione, perché poi il grande tema, oltre alla questione delle scadenze, oltre alla questione della liquidità delle imprese, ci arriviamo tra un attimo, è anche questo, l'estrema complicazione di questo paese. Ieri abbiamo raccontato delle 411 pagine del volume dell'Agenzia delle Entrate per pagare le tasse quest'anno. Ebbene, adesso parliamo di queste 246 scadenze. La seconda metà di luglio rischia di trasformarsi in un gran premio della montagna per contribuenti e professionisti che li assistono. Da oggi il giorno in cui sono in ballo appuntamenti canonici ma pesanti in termini di cassa, con ritenute IVA e del mese precedente. Alla fine di luglio passano complessivamente 246 scadenze fiscali, il 93,65% di queste riguarda proprio i versamenti, una concentrazione davanti alla quale i commercialisti sono da giorni in prima linea per chiedere che l'appuntamento con il saldo 2019, l'acconto 2020 delle imposte dirette sia ulteriormente rinviato a settembre. A parlare anche Massimo Miani, che è il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, che torna su questo tema a sollecitare il governo. Serve un buon senso, un rinvio a settembre, ma pare però che il governo da questo lato non ci voglia sentire. Ce lo racconta bene La Stampa a pagina 5, che già ieri aveva preso la via su questo tema. Soffrono i bilanci delle partite IVA, scrive Gabriele De Stefani da Torino, ma piangono anche le casse dello Stato. E così il governo non cede alle richieste del mondo delle piccole imprese piegate dalla crisi. Si va avanti così. Le scadenze fiscali restano fissate a lunedì 20 luglio. Qual è il tema qua? Che ci sono tutta una serie di piccole imprese, artigiani, partite IVA che molto semplicemente dopo il lockdown non hanno soldi in cassa e quindi il 20 luglio non hanno i soldi o hanno troppi pochi soldi per pagare e questa prima, per mettere i soldi in questa prima scadenza fiscale. Adesso si uniscono altri al coro delle persone che chiedono il rinvio. Confcommercio torna a insistere per un rinvio almeno al 30 settembre, definendo la richiesta obbligata a causa della grave crisi di liquidità nella quale versano le imprese e i lavoratori autonomi per l'emergenza Covid-19, ma anche per le difficoltà organizzative che stanno affrontando gli intermediari che assistono le stesse imprese. E occhio, però, nel pezzo di Gabriele De Stefani è contenuta una cosa che, devo dirvi, ho pescato solamente sulla stampa e che, beh, potrebbe rappresentare un fronte di discussione aperto, perché nelle more di questo tema c'è la questione della revisione dell'IRPEF, delle nuove norme fiscali. E però, in vista del cantiere per la riforma del fisco, spunta nel PD l'idea di un aumento delle imposte di successione per i patrimoni sopra i 500.000 euro e sulle rendite immobiliari. L'ipotesi è stata discussa ieri pomeriggio in un vertice al Nazareno tra il ministro Roberto Gualtieri, il vice segretario Andrea Orlando, il vice ministro Roberto Misiani e il responsabile economico della segreteria DEM Emanuele Felice. E anche questo potrebbe arrivare, un aumento della tassa di successione, almeno su questo starebbe ragionando il Partito Democratico. Tutta la questione autostrade, se volete due letture completamente diverse sugli effetti politici, oddio, come già vi dicevo prima, dalle prime pagine è abbastanza chiaro, no? Perché per esempio il Quotidiano Nazionale dice che vincono i 5 Stelle, il Fatto Quotidiano che vince il Presidente del Consiglio Conte, i giornali di destra, centrodestra che hanno vinto i Benetton, altri sono un po' più equilibrati, però sulla tenuta del governo ci sono due pezzi contrapposti, se li volete. Uno è quello di Claudio Tito sul quotidiano La Repubblica, un commento che dice: attenzione al governo, gli dice attenzione a cantare vittoria, perché la maggioranza, nonostante questa vicenda autostrade dia un minimo di respiro, naviga a vista. E dall'altra parte l'editoriale di Marco Travaglio sul Fatto Quotidiano, che se la prende con un po' di quotidiani, compreso La Repubblica, che vedevano la fine della maggioranza, in un commento che si intitola Monumento ai caduti. E quindi queste le letture politiche. Vedremo come andranno a finire le cose. Ci sono altre partite aperte, come sapete, come quella del MES. Oggi trovate varie cronache sui quotidiani dell'intervento ieri del Presidente del Consiglio Conte in aula in vista del Consiglio europeo che ci sarà domani. Prima di andare alla pausa per il traffico, vi voglio segnalare una cosa. C'è una foto che è veramente impressionante, e usciamo un po' dalle questioni politiche, anche se in parte è correlata perché ha a che fare con l'immigrazione. C'è una foto veramente impressionante, la trovate a pagina 10 del quotidiano La Repubblica. E il pezzo poi lo firma Alessandra Ziniti. È la foto di un gommone con il cadavere di un uomo incastrato tra i tubolari di questo gommone sgonfio, scattata il 29 giugno dal Seabird, aereo della ONG Sea-Watch. Per 4 volte in 2 settimane i piloti hanno rivisto il gommone e nessuno è mai andato a recuperarlo. Una foto che rischia di diventare, che può diventare nuovamente un simbolo di quello che succede nel Mediterraneo, quell'uomo in mare da 15 giorni che nessuno ha voluto salvare. Traffico. Hai un libretto smart? Allora rendi i tuoi risparmi dei super risparmi. Attiva online l'offerta Super Smart Premium Digital 150 giorni. E se non ho il libretto smart? È facile. Prima ne apri uno, prima attivi l'offerta. E a scadenza riceverai un tasso di interesse vantaggioso sulla nuova liquidità accantonata sul libretto smart. Puoi farlo solo online su poste.it o da app BancoPosta. Più comodo di così. I buoni e libretti di cassa depositi e prestiti li trovi solo da Poste Italiane. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. I libretti di risparmio postale sono emessi da Cassa Depositi e Prestiti, distribuiti da Poste Italiane, sono assistiti dalla garanzia dello Stato. Per le condizioni economiche, contrattuali, fiscali e le limitazioni, consulta i fogli informativi disponibili presso gli uffici postali su poste.it e cdp.it. Caro Fabio Tamburini, nostro direttore, direttore dell'agenzia di stampa Radio Core e del Sole 24 Ore, ovviamente. Fabio, buongiorno, ciao, buon giovedì. Buongiorno a tutti. Eccoci qua. Allora, abbiamo parlato già poco fa perché valeva la pena toccare questo tema fiscale, però io vorrei un tuo commento, perché la richiesta delle piccole imprese, delle partite IVA, degli stessi commercialisti inizia a farsi pressante per un rinvio soprattutto di questa scadenza del 20 luglio e quindi di lunedì prossimo, che però per il momento il governo nega. Siamo travolti da un'ondata di adempimenti fiscali, perché l'emergenza sanitaria ha un po' mollato, la situazione è migliorata e lo Stato esattore è lì dietro l'angolo che aspetta a guado. E i problemi ci sono, perché in realtà Covid-19 ha lasciato dei segni non banali, le aziende faticano a ripartire, anche se non tutte nello stesso modo, perché ci sono segnali positivi, ma per l'appunto sono soltanto segnali di ripresa. Lo scenario complessivo per le imprese e per le partite IVA resta di grande difficoltà. In questo contesto arrivano decine e decine di adempimenti fiscali e quindi c'è una forte domanda da parte dei cittadini di avere un attimo di tregua in attesa che l'economia riparte. D'altra parte i problemi ci sono anche per i conti pubblici e di conseguenza anche per il governo il sentiero è stretto. Allora, ti porterei, Fabio, sulla questione autostrade, che continua ad essere al centro della scena. Oggi il Sole 24 Ore ci dedica 2 pagine con la parte un po' più politica dell'accordo. Ne scrive un pezzo Emilia Patta su Aspi, Autostrade a controllo pubblico e Benetton in uscita. Restano una serie di incognite, a partire dal prezzo che verrà pagato da Cassa Depositi e Prestiti e il prezzo che verrà pagato ai Benetton per scendere all'11%. Il diavolo si nasconde nei dettagli e di conseguenza credo che un giudizio definitivo su quanto è successo nelle ultime ore si potrà dare soltanto quando le bocce saranno ferme. Attualmente sono ancora in movimento, ci sono punti d'accordo che devono essere ancora definiti e lo potrei definire un accordo salvo intese, come adesso sì. È diventato di moda per i provvedimenti governativi. Il vero scandalo è che questo accordo arriva dopo 2 anni, questa ipotesi di soluzione, peraltro non definitiva, avviene dopo 2 anni dal crollo del ponte. Insomma, si è fatto prima rifare il ponte che a definire i termini del rapporto tra lo Stato e i Benetton, e questo non è un bene. Ci racconta Gianni Trovati qua che per Cassa Depositi e Prestiti si prevede un impegno da almeno 3 miliardi, ma appunto si attende il prezzo. Moria Longo ci racconta del default di grandi dimensioni che si è scampato e poi anche l'aria che tira dalle parti dei Benetton con Marigia Mangano, questo a pagine 2 e 3 del Sole 24 Ore. Andrei anche Fabio su questa fotonotizia di prima pagina. Oggi è dedicata a un'azienda, è dedicata a Barilla ed è un pezzo che firmi tu alle pagine 4 e 5 con una lunga intervista al presidente Guido Barilla che parla degli investimenti in Italia, 1 miliardo e 400 milioni di euro in 5 anni. Ecco, questa è una delle notizie che vorremmo dare con più frequenza e rientra un po' nel discorso che dicevo prima, grandi difficoltà ancora dopo l'emergenza sanitaria, ma ci sono segnali importanti di ripresa e questo della Barilla è un segnale forte, 1 miliardo di investimenti in Italia e altri 400 milioni nel resto del mondo, sono cifre importanti, cifre che testimoniano la vitalità dell'industria manifatturiera italiana, ben vengano queste notizie, speriamo di scriverne tante, il paese ne ha bisogno, devo dire che il gesto di Barilla è coraggioso perché in tempi di incertezza come questi reagire rilanciando la posta, reagire con coraggio è proprio quello di cui il paese e gli italiani hanno bisogno, quindi chapeau alla Barilla, credo che le notizie che pubblichiamo oggi in proposito siano davvero significative e accendano anche qualche speranza in uno scenario complessivo che resta ancora di grande confusione. Piuttosto cupo. Grazie al nostro direttore Fabio Tamburini, ci risentiamo giovedì prossimo Fabio, GR24 e poi con Maria Latelle, i nostri ospiti, avremo il vice ministro dello sviluppo economico Buffagni, poi parleremo con Giorgia Meloni, a tra poco. Ora! È ora di avere un sito internet, è ora di vendere i tuoi prodotti online, è ora di farlo da solo, perché è facile, perché tu puoi, con Supersite, su aruba.it.